Chiava, chiava, sezione 10, chi c'è? Hola, sezione canale 10. Tu sei nata lì. Chiava. Chi vuoi che sia? Perché sei tutto a fischi, Rick? Sono sempre a fischi. No, adesso no, può fare a fischi. Buonasera Roberto, aspetta che mi prendo una sedia. E io. Avanti Roberto. C'era uno poco fa, stava provando, stava arrivando abbastanza forte, 9+20, però era, aveva dell'alternata sotto, forse stava facendo qualche prova. Non è voluto entrare, non ha, gli ho chiesto chi è avanti e non ha risposto. Ho capito. Ho attaccato adesso a vedere chi c'era. Ho fatto un click e vi ho trovato. Mi ha mandato un messaggio. Lo so, mamma mia, ma sto scherzando, l'ho fatto. Ma l'hai visto qui? Sì, non l'ho aperto, comunque. Oh, vabbè, ma aspetta un attimo. Santa tu. Allora, dimmi un attimo. Ci sei? Positivo, ci sono, ho avuto un attimo un problemino. Io sento gente lontana sotto. L'ho sentita anch'io per un attimo. Basta, non è fortissimo, va per pagazione, ma non è che ci puoi modulare. Il microfono Philips l'hai cablato? No, ce l'ho ancora qui, dovevo praticamente cablarlo praticamente lo dovevo cablare per metterlo in un Midland che veicolare, visto che tanto per usarlo lì, visto che non aveva microfono, e adesso lo devo attaccare, visto che devo adattarlo perché ha il jack tipo a cuffia e quindi glielo cablo lì. Okay. Aspetta, che devo fare un'altra fatta al volo, se non me ne dimentico. E ce l'ho qui accesa. Rieccomi, ci siamo. Positivo. Ma il pomeriggio stai entrando tu, Riccardo, solo la notte? Io adesso è da tipo 4-5 giorni che non tocco una radio, le lascio solo accese perché c'era un caldo, non entravo neanche di sera perché poi mi coricavo, guardavo il telefono. E adesso ho preso un po' di riprendere, anche se adesso sta iniziando oggi almeno un po' il fresco, così non ho problemi con la radio perché ancora non ho un ventilatore. Ma tanto da dopodomani ritorno al caldo, va via Maestrale e ritornano le temperature alte, 35-37 gradi, oggi è sceso a 25. L'ho visto che oggi è sceso in picchiata, ieri c'era un caldo, 40 gradi all'ombra e oggi proprio è sceso, mi sono dovuto un poco coprire stamani. Dimmi una cosa, l'incendio si vede da casa tua giù a Scala Aereo? Non ne so niente di incendio, non lo so. Perché è un incendio bello grosso, dove c'è la discarica. Non lo so, dov'è? Non ho capito, a Porto Torres? È andata andando verso, non pare, dov'è? Mi pare zona tipo per scendere a Palmadula, quelle zone. Ho capito, da vedere, non ho guardato niente, che oggi stavo facendo altro, ero in fretta tutte le volte e non stavo neanche guardando, non ho neanche sentito per il giornale, non mi sono informato di niente. No, perché qualcuno sta lamentando, dice che c'è una puzza di roba tossica giù nella parte bassa di Sassari, un'amica mia che è giù verso più in basso di te, però verso le luci gialle, lo sai, verso le luci gialle un po' più all'interno di lì, dice, a casa sua c'è un odore fortissimo. Sì, lo so dove sono le luci gialle, più o meno già ho capito. E il ricevitore utilizzando lo stai? Quale? Il grande, il 7000. Ah, babbo, se ce l'ha nel comodino, lui sta sempre ascoltando, non io. Ah, ho capito, ma è bello, dai, un bel apparecchio. E lui lo ha tenuto tutti i giorni per spostare anche il discone da sopra il garage per ascoltare, così almeno quello fa tutte le frequenze. Tu non ti sei divertito, non ci hai ancora preso male. Cosa? Non ho capito, Roberto. Tu non lo usi questo? Ma poche volte, non è che lo uso molto, uso più l'H800, qualche volta lo attacco, però non ci sto tutto il tempo, sto più a cercare propagazione. sì, però un po' lo voglio attaccare, gli faccio fare un giro a quel Lafayette Accadi, o per esempio il ricevitore. Oh, vabbè, a me te l'ho sempre detto, a me piace tanto ascoltare, trasmettere se no a un certo punto, da qua al 27 così, divertente ogni tanto. Diciamo questi periodi di coronavirus ho ripreso, ma più che altro mi piace ascoltare, anche se questi giorni sono sempre impegnato, non sto neanche ascoltando. Ho capito. Già, qualcosa di ascolto, ne faccio poca, mi devo ancora dedicare. Già ho un po' abbandonato di questo tempo a trasmettere, quindi pensa tu, ascoltavo qualcosa con babbo quando capitava che ero lì vicino, però nient'altro. Siamo con una chiamata su 10, anche se sono sicuro che qualcuno oggi sta ascoltando, perché oggi a uscire a piedi magari c'è un po' di freschettino la sera, se non ti copri. Vediamo se qualcuno vuole entrare sul canale 10, compagnia di Roberto da questa parte e Riccardino dall'altra. Avanti, chi vuole entrare? Non sai che ho visto oggi alla Lidl un fuoristrada grosso come il vostro, con la cellula dietro, non grande come la vostra, però anche questa è una bella grossa. Lo conosco, già passato davanti all'ufficio di babbo, c'è già parcheggiato, l'ha già visto. E che colore è quello che hai visto? E cos'è? Tipo bianco panno, una cosa del genere, se non sbaglio. No, ne hai visto un altro, quello che hai visto tu bianco è un altro. No, questo è grosso, un fuoristrada tipo quello che avete voi, dello stesso colore, è amaranto. Non lo conosco, bisogna chiedere, devo chiederlo a babbo, visto che lui è sempre lì e qualche volta già la vede qualcosa. Gli passa avanti anche le inquadrature, la discesa dalla sua cucina, poi alla strada parallela, già glielo chiedo dopo. Ma non la Lido vicino a me, no, la Lido giù a Predanietta. Ah, Predanietta! Ehi, erano turisti, dietro c'avevano una porta, sembrava un portone di casa, talmente era grande. Aspetta, ho capito qual è sempre della stessa marca, della Dodge, targato Deutschland. Targato Deutschland? Targato Germania. Ehi, sì. E quello lì è bello grosso anche quello, poi c'è una scaletta alta dietro, però il vostro è più grande, è più largo. Praticamente l'altro giorno eravamo in macchina e babbo è appassionato, come sai, e praticamente loro stavano andando lì alla Dodge, sempre a Predanietta, capito, infatti poi li ha seguiti e niente, li ha trovati lì, deve essere bacitano un po' a Predanietta, stanno lì vicino. Comunque sì, è un Dodge dello stesso colore, però quello è il modello nuovo, tipo quello del 2007 e il nostro del 99. È più o meno simile al vostro, l'ho visto, bello grosso. Anche quello non scherza. Eia, no, l'ho visto stamattina il cassonato di tuo padre che occupava mezza carreggiata, lo vedo tutti i giorni quando passo, o c'è quella o c'è l'altra macchina, adesso questi giorni ho visto questo. Ho capito, già lo so, babbo ha sempre l'intenzione, poi ne ha visto anche un altro, sempre a caccia di qualcos'altro, di pick-up, perché gli piacciono soprattutto quelli americani, non le può vedere le auto europee. Tipo auto europee, lo dice che tutti non hanno il coraggio di far uscire un modello diverso alle altre, tutte a scopo alle stesse, infatti quelle gli piacciono perché sono un po' fuori da quella categoria. E l'altro giorno è venuto in officina un cliente di tanti anni, c'è, cioè, il figlio non so dove sia, c'ha una macchina americana rarissima, una bestia, è una macchina, dice che ne hanno fatto pochissime, però ce l'ha fuori, sulla tiene il continente, non mi ricordo che macchina era, ma è il nome, però non me lo ricordo, una macchina enorme, sportiva, era decennizzata, mi pare 7.000, cosa esagerare, 8 cilindri. Ho capito, ma non lo so. Se vedi, forse stai dicendo, a me piacerebbe più avanti tipo la Pontiac, quella sportiva, il modello quello vecchio, che è un bel bello. Ce n'è una, forse altri due ce ne sono di Pontiac a Sassari, però modello nuovo. E anche la Corvette c'era a Sassari. Babbo li conosce tutti, quello della Corvette è un suo amico che praticamente l'abbiamo visto anche ieri andando, no, non ieri. L'abbiamo visto domenica andando all'Argentiera, che era da Ushan, e poi una Pontiac e dell'Ottico. che c'è una bianca e l'altra mi sembra che sia rossa. Sì, quella dell'ottico è quella rossa, arancione. Sinceramente non è che ne sia molto amante delle macchine americane, però le apprezzo, dai, anche quelle sono. Ho capito. Tutto a posto, sta andando bene la radio adesso. Basta, sta andando bene, non sta dando problemi. Dai, meglio così, cioè dice che hai avuto dei problemi, ne mi stavi dicendo poco fa. Sì, qualche problemino, non si capiva cosa gli accesi, c'era un attimo incantata e l'ho spenta e riaccesa, adesso sembra che stia andando. E io. Ma in officina non te ne sono mai capitate di auto americane? Sì, vabbè, la più grossa era quella di Rovelli, la Cadillac Eldorado, era una macchina enorme, 7000 di cilindrata, insomma, forse 12 cilindri o 10 cilindri, era una cosa spaventosa. E poi da poco abbiamo fatto quella di quel ragazzo, quella macchina, lo stesso un pick up, però gli abbiamo fatto la modifica per mettere i carburatori a pezzi, non so se l'ha visto, di Angelino. Ma sei di Maurizio? No, si chiama Angelo. Ah, Angelo Rovelli. No, aspetta un attimino, Rovelli era il proprietario della petrolchimica di Porto Torres, un miliardario. E quella è la macchina sua, blindata, e l'aveva portata l'autista, ma tanti anni fa, stiamo parlando 40 anni fa, forse no, di più di 40, cacchio, ragazzino, più di 40 anni. E c'aveva un cofano spaventoso, e aveva toccato una macchina, una vecchia 127, l'aveva toccata, l'aveva distrutta, lui si aveva appena scheggiato il cofano e davanti. E poi ne è venuta una, forse l'anno scorso, una che la vedi sempre in giro, mi sembra che sia o verde o nera, una specie di pick up, però vettura, dai, non come la vostra, più vettura. Le abbiamo fatto l'apertura nel cofano per mettere i carburatori, l'aspirazione dei carburatori, quelli grossi. Ho capito, no, io ti sto dicendo, se te lo ricordi, il nome di questo Rovelli. Non lo so. Non lo so, cerca nella cosa su internet Rovelli e ti dice tutta la storia. È una persona multimiliardaria, era, adesso è morto. Ah, adesso è morto, ho capito. No, perché non sapevo, perché da quel mamma conoscono un amico che è miliardario, che ha un bel soldi, che ha macchine americane, che si chiama Maurizio Rovelli. Infatti volevo sapere. Capito, niente, poi non so se l'hai vista, praticamente nella scuola davanti al Conad, vicino alla tua officina, tu non sei mai sceso di giù, c'ho uno Chevrolet pick up arancione, quel logo dello vecchio. La scuola la conosco benissimo perché hanno studiato tutte e due le mie figlie lì, però non l'ho mai vista. Perché l'altro giorno, qualche settimana fa, sono passato davanti lì, girando per sono passato avanti alla scuola, all'ingresso sotto, e ho visto questo pick up della Chevrolet tutto arancione, però se vedi poco era messo male davanti, era tutto arrugginito, lo toccavi e scendeva un pezzo di ruggine. Non l'ho visto. E poi non so se lo conosci, stavo pensando sempre alle macchine americane, quello che ha la Station Wagon uguale alla nostra, che questo Gavino che sta nella zona industriale vicino a Mauri. Non lo conosco. Hai visto tipo la Station Wagon uguale alla nostra, però ha tutti i bordi di legno? No, non ne ho visto, ne avevo visto una carina, una Buick anni fa, che però è morto il proprietario, uno Spider aperto, una decapotabile, e poi ce n'era un'altra ancora più bella, rosa, con le pinne dietro o dal dietro. La conosco, quella è di Patrick Astori, il cantante. Di chi? Quella che stai dicendo tu, quella macchina rosa, è di l'abbiamo conosciuto, di Patrick Astori, un cantante che c'eravamo incontrati a un raduno di macchine americane ad Alghero. Boh, non lo so, non lo conosco. Aspetta, riprovo a fare la telefonata, che adesso forse si è liberato il telefono. Scusa un attimo. Sì, da sono qui, tra un po' chiudo che vado a mangiarmi il gelato, io comunque ti aspetto. Ok, niente, non ero aggiungito. Ho capito, si riproverà più tardi. E niente, però ti volevo anche chiedere, non so cos'era di Florina, c'è un tipo che ha il Dodge, è sempre modello tipo il nostro, che è tutto bianco con le strisce nere. Boh, spolarci in qualche raduno, qualche volta già le sono capitate queste americane, però ne ho visto diverse, non me lo ricordo però questo. E che tu non so se ci sei mai andato, ma se vedi questo meccanico di passata alle macchine americane che ha dei Ford Excursion che sono un beati, sono il doppio del nostro Dodge, ma quanto sono belli, poi ha un pick up della Chevrolet tutto graffato. Ed è appassionato questo. Che cosa? È un appassionato. Eh sì, ha tutta la cucina stile americano, già si vede che è appassionato proprio di queste queste macchine. Eia. Oh vabbè, se ci sei ci sentiamo dopo, vado un attimo a mangiare il dolce. No, no, adesso chiudo, dai. A parte c'è un po' di caldo qua dentro, mi sto già venendo il cerchio in testa, dai. Ci sentiamo magari domani o quando coincide, dai. Ciao, buona carica e buon tutto, Riccardo. Saluto a tutti in casa, ciao ciao. Ciao, ciao Robè. Villa mia, Ginko. Ciao Robè, buona serata, ci sentiamo domani. Avanti, Ginko, io sto andando, guarda se c'è qualcuno. Sì, no, sono andato a salutare, dai. Ciao Riccardino, ciao Roberto, dai. Buonanotte a tutti. Ciao Emanuele, mi sentito anche a te, dai. Qua c'è troppo caldo, mi sposto, dai. Vado dall'altra stanza che c'è l'aria condizionata. Ciao di nuovo a tutti, ciao ciao. Ciao Emanuele, ci sentiamo domani. Ciao, ciao, vabbè. No, no, no, no, no, no, no.